Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie per la cortese attenzione di tutti quanti, grazie per la regia di Cristiano Valli, grazie anche all'amico Poldo per le acute considerazioni, nonché per il conforto morale. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.